4 ore. Emergenza a Lampedusa, oggi arriva Berlusconi sull'isola le prime due navi per trasferire gli immigrati. Processo breve, scontro alla Camera, opposizione in rivolta. Libia, Obama propone di fornire armi ai ribelli, dibattito in corso. Roma Calcio, c'è l'intesa ma slitta la firma. Una buona giornata dalla redazione da Anna Rita D'Ambrosio. L'emergenza immigrati dunque resta in primo piano. Oggi è il giorno della visita del premier Berlusconi a Lampedusa dopo le proteste dei giorni scorsi. In diretta accanto a me c'è Dario Ceccarelli. Dario. Sì, Anna Rita, anche oggi a Lampedusa è una giornata campale, anche se ormai la parola emergenza qui fa quasi ridere. Oggi sono arrivati altri due barconi con un centinaio di migranti. Era scattato anche un allarme subito rientrato perché si temeva che ci fosse dell'esplosione, perfino un kamikaze, ma è stato escluso qualsiasi pericolo. Il fatto è che sull'isola, come hai detto tu, sta arrivando il premier Berlusconi con il primo ministro, con il ministro Alfano, e quindi la tensione è a mille. Tra l'altro a Lampedusa sono anche arrivate le prime due delle cinque navi organizzate dal governo per trasferire i 6.000 immigrati sbarcati negli ultimi giorni. Il problema è che bisogna decidere dove mandare queste navi e chi accoglierà, insomma, questa gente. Come si sa, non c'è la fila per riceverli. Intanto però a Lampedusa, al di là delle enunciazioni, la situazione sta degenerando. Abbiamo sentito pochi minuti fa due albergatori esasperati. Anche il danno economico è enorme. Tutte le prenotazioni sono saltate. Sentiamo. Le prenotazioni erano già in fase avanzata. A partire dal 10 febbraio si è bloccato tutto con parecchie disdette e nessuna prenotazione in corso, quindi è tutto fermo in attesa di nuovi sviluppi. Voi siete arrabbiati? Arrabbiati a dire poco. Mi sembra una parola troppo buona, è un termine un po' più pesante, dobbiamo. Non è una situazione gestibile a Lampedusa. Questa gente che ha bisogno deve essere portata in altri centri dove può essere temporaneamente accolta, poi le altre cose, trasferimenti, poi devono essere decise in altri territori, non a Lampedusa, perché è un'isola di 20 km quadrati e non può gestire questo fenomeno. Voi vi sentite abbandonati dalle altre regioni, dal governo? Ma noi siamo sempre stati abbandonati, siamo l'ultima isola, l'isola più a sud d'Europa, e per questo emarginati, quindi non c'è stato mai un interesse di governo o di altre istituzioni. Un'amarezza profonda quella di questo albergatore, che ormai sta trasformandosi in esasperazione e rabbia. Sentiamo quest'altra testimonianza ancora più drammatica. Mi spiego la situazione. E allora, io una settimana che faccio la guardia armata con un bastone sotto la barca, perché la barca ogni notte rifugio di questi poveracci, dove fanno tutti i loro bisogni, è diventata una porcheria. Hanno mangiato tutti i cani randaggi dell'isola, tutti i cani randaggi dell'isola. Forse voi non vi rendete conto, qui è una guerra, cioè hanno invaso le nostre case. Sì, lei deve considerare che è stato tempo bello, si sono rifugiati dappertutto, sui peschi rossi hanno dormito, hanno rotto tutte le barche, hanno rubato la spesa. Cioè ormai qui non è più questione di accoglienza, qui non siamo in guerra. Oggi viene Berlusconi, voi albergatori che cosa gli chiederete? A chi? A Berlusconi? Che cosa gli dobbiamo chiedere a Berlusconi? Sono 20 anni che chiediamo. Io una cosa soltanto gli chiederei a Berlusconi. Io voglio l'indipendenza dall'Italia e dall'Europa. Voglio che Lampedusa diventi indipendente. Poi non voglio nient'altro. Non voglio soldi. Voglio che Lampedusa diventi indipendente. Così questa povera gente non può più venire a Lampedusa, perché non siamo né Europa né Italia. Quella che avete sentito era la voce di un albergatore di Lampedusa, sempre più amareggiato per la situazione che sta diventando sempre più ingovernabile. Anna Rita, io mi fermerei qua in attesa poi di sentire cosa dirà tra poco Berlusconi. E allora grazie a Dario Ceccarelli per averci fatto sentire queste voci da Lampedusa, voci dunque sempre più disperate. Intanto moltissimi tunisini sbarcati sull'isola siciliana stanno cercando di raggiungere in treno la Francia, che però li respinge. Così in questo momento nella città ligure di Ventimiglia ci sono circa 200 tunisini sistemati in una sala della stazione, ma altri potranno arrivare, la situazione è ingestibile, denuncia ai microfoni di Radio 24 il sindaco sindaco Gaetano Scullino, che paventa anche un'emergenza sanitaria. L'ha intervistato Raffaella Calandra. Oggi siamo in seria emergenza. I francesi hanno intensificato i controlli a tutti i valichi di frontiera. Non c'è nessuna possibilità di superarli e quindi 20.000 è diventato un tappo. Non è più gestibile una cosa del genere. In questo momento a 20.000 quante persone ci sono? Nell'ultimo giorno e mezzo si sono verificati almeno quasi 300 persone. Sono tutti fermi alla stazione, la stazione è impraticabile e quindi la mia preoccupazione è dei prossimi treni che arrivano. Secondo lei, sindaco, c'è una situazione che può portare a delle emergenze sia per il turismo che di tipo sanitario? Soprattutto per il turismo e di tipo sociosanitario. Non c'è possibilità di farsi delle docce, non c'è possibilità di cambiarsi. Vera emergenza, devono essere fermati. Quindi dei respingimenti prima che arrivino a 20.000? Bisogna bloccarli prima. Ecco, sindaco, in un certo senso voi vi sentite come cittadini di Lampedusa in questo momento? Certo, fatte le dovute proporzioni, proprio come dice lei. Intanto adesso siamo in super emergenza. Se continua così ancora 2, 3, 4 giorni, allora veramente è un disastro. Lei nota che cresce un po' di insofferenza anche nella popolazione? L'insofferenza è già alle stelle da parte della popolazione, nel senso che tutti quanti ci dicono cosa aspettate per fare qualcosa, nel senso, logicamente, perché non è sostenibile. Oggi noi non possiamo più gestire. Teme che la situazione in un certo senso possa portare anche a forme di protesta da parte della popolazione? È un rischio che io intravedo. Questa dunque la cronaca, prima da Lampedusa e poi da Ventimiglia, e poi c'è il fronte politico, il dibattito che è in corso, soprattutto le regioni che non hanno una posizione comune. In diretta Vincenzo Miglietta da Roma. Vincenzo. Sì, buongiorno. L'obiettivo di Palazzo Chigi è distribuire dunque gli immigrati in tutte le regioni. Tempi e modi tuttavia devono ancora essere messi a punto. I governatori si riuniranno per questo nel primo pomeriggio a Roma per trovare una linea comune che proporranno quindi all'esecutivo nell'incontro delle 17. La soluzione tuttavia del decentramento dei migranti non sembra essere dietro l'angolo. Diversi infatti i paletti delle autorità locali. L'aiuto deve andare ai profughi libici e non ai clandestini, avverte il presidente del Veneto Zaia. Dalla Lombardia Formigoni precisa: nella distribuzione dei profughi va tenuto conto anche dell'indice di stranieri già presenti nelle varie regioni. La Toscana conferma la disponibilità all'accoglienza, il presidente della regione Rossi boccia però la soluzione di un'unica tendopoli perché spiega di non facile gestione. Particolarmente preoccupate Sicilia e Puglia, il turismo è in ginocchio, dice il presidente Raffaele Lombardo. Vendola lamenta la mancanza di informazioni da parte del governo. All'emergenza profughi torna a guardare infine il presidente della Repubblica, le regioni italiane, dice Napolitano, devono aiutare Lampedusa. Da Roma è tutto. Grazie Vincenzo, noi però restiamo a Roma perché sul fronte politico la notizia in primo piano è un'altra, è quella relativa al processo breve, alla bagarre in aula questa mattina. Perché c'è stata questa bagarre? Ce lo racconta sempre da Roma in diretta Elisabetta Fiorito. Come già annunciato, PDL e Lega accelerano sul processo breve, chiesta e ottenuta l'inversione dell'ordine del giorno nell'aula della Camera, scavalcando la discussione sulla legge comunitaria. Si grida vergogna, vergogna dai banchi dell'opposizione, che valuta anche l'ostruzionismo. Il disegno di legge, lo ricordiamo, accorcia i tempi della prescrizione per gli incensurati non ancora condannati in primo grado e prevede una tagliola sui processi lumaca. Il ministro della giustizia Angelino Alfano difende l'inversione di ordine del giorno. Sentiamo Alfano. La inversione dell'ordine del giorno ha destato scandalo. Se non avessimo fatto l'inversione dell'ordine del giorno, faccio io una domanda a voi: quale testo sarebbe stato trattato oggi? Sarebbe stata trattata la comunitaria. La comunitaria conteneva la responsabilità civile dei magistrati, si sarebbero scandalizzati per la responsabilità civile dei magistrati, cioè era all'ordine del giorno una indignazione programmata da parte del centro-sinistra, quindi hanno solo loro invertito l'argomento dell'indignazione, ma si sarebbero comunque indignati come fanno tutti i giorni. Accusa il centro-sinistra, il segretario PD Pierluigi Bersani contesta il viaggio di Berlusconi a Lampedusa. Sentiamo Bersani. Il famoso viaggio di Berlusconi a Lampedusa, abbiamo capito cosa sia, l'abbiamo capito stamattina, a togliere i riflettori da qua, dove si consuma un gesto che sostanzialmente, per salvare una persona sola, butta a mare centinaia e centinaia di processi e toglie la giustizia alla gente. E il PD annuncia anche un presidio davanti a Montecitorio questa sera alle 18, nonché chiede di non contingentare i tempi del dibattito. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, voi studio. Grazie Elisabetta, e dopo questa parentesi politica noi parliamo della situazione in Libia. Le forze di Gheddafi hanno ripreso il controllo del porto petrolifero di Ras Lanuf, ma gli aerei francesi avrebbero bombardato le forze di Gheddafi. Sugli sviluppi sul campo sentiamo dalla Libia l'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Nigri. Dopo la grande avanzata che aveva portato le truppe rivoluzionarie addirittura a minacciare ecco la grande ritirata che è cominciata ieri. C'è stata la controffensiva delle milizie di Gheddafi che prima hanno costretto i ribelli ad arretrare fino a Bijawad e oggi hanno occupato di nuovo il terminale petrolifero di Ras Lanuf. Insomma, in 48 ore i ribelli avevano guadagnato circa 200 chilometri dopo la caduta di Ajdabiya, la roccaforte dove si erano serragliati i fedeli di Gheddafi, e adesso devono restituire praticamente tutto il terreno che avevano conquistato. Che cosa significa? Significa che insomma le truppe di Benghazi, dei ribelli, degli Shabab sono sempre più in difficoltà, sono colonne sparse, un po' anarchiche, poco organizzate e soprattutto malarmate e incapaci di poter affrontare l'artiglieria pesante di Gheddafi. Cosa succede ai raid internazionali? Questa mattina sembra che i francesi abbiano bombardato postazioni di Gheddafi vicino a Ras Lanuf, ma in realtà anche il supporto aereo non può bastare ancora per far ritornare i ribelli verso l'offensiva e verso Sirte. A questo punto, come ha detto il presidente americano Obama questa notte in un'intervista, non è da escludere anche che i ribelli vengano armati e forse anche addestrati per tentare di organizzare una forza militare capace di sconfiggere anche militarmente Gheddafi. In realtà quasi tutti si attendono una soluzione politica diplomatica, che Gheddafi se ne vada in qualche modo in esilio, perché evidentemente con la forza è ancora difficile sbalzarlo dal potere. E come sentivamo dalla Libia, da Alberto Negri, proprio la possibilità di un esilio del colonnello potrebbe essere discussa oggi a Tripoli da Gheddafi stesso e dall'inviato dell'ONU, il Giordano Al-Khatib, ufficialmente in visita per trovare una mediazione tra il leader libico e i suoi oppositori. Ma intanto la possibilità di armare i ribelli fa discutere le cancellerie internazionali. Non dico che accadrà, ma non lo escludo, dice il presidente degli Stati Uniti in questa intervista. Stiamo valutando la situazione per capire cosa possono fare ora le forze di Gheddafi. Tenete presente che è sotto pressione da 9 giorni e che le sue perdite sono state significative. E così Obama è possibilista sull'opportunità di fornire armi ai ribelli e la Francia è sulla stessa linea. Dice invece fermamente no la Russia, con il ministro degli esteri Lavrov che appoggia il segretario generale della NATO Rasmussen, che ha dichiarato l'operazione in Libia si svolge per proteggere la popolazione e non per armarla. No, deciso anche dalla Norvegia e dall'Italia. Armare i ribelli sarebbe una misura estrema, ha sottolineato il portavoce della Farnesina Massari. La NATO, intanto, sta effettuando il passaggio di consegne necessario a prendere da domani il comando dell'operazione. La guiderà da Napoli il generale canadese Charles Bouchard. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E le polemiche sulla posizione, le polemiche sulla Libia in realtà vanno avanti. Proprio pochi minuti fa, intervistato alla TG2, il ministro degli esteri Frattini si è riferito a quanto sta accadendo alla frontiera francese a Ventimiglia. Noi abbiamo ascoltato la voce del sindaco e l'allarme che lanciava proprio dai nostri microfoni. Ebbene, il ministro Frattini ha detto che questo è uno degli aspetti di mancanza di solidarietà da parte francese e di mancanza totale dell'Europa. Non spetta però l'Italia, ha detto il ministro Frattini, a un contenzioso con la Francia. Non spetta però, le polemiche evidentemente continuano. Le 13:17 nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato dell'emergenza immigrati a Lampedusa e a Ventimiglia. Oggi sull'isola siciliana arriva il premier Berlusconi tra pochissimo, sono intanto arrivate già le prime 2 navi per trasferire gli immigrati. Abbiamo parlato anche di processo breve, dello scontro alla Camera e dell'opposizione in rivolta. Tra pochissimo parliamo di rifiuti, a Napoli torna l'incubo, nuovi incendi nella notte, parleremo anche della Roma Calcio, c'è l'intesa ma slitta la firma. Come detto però, adesso subito andiamo in Giappone, dove l'allarme non cessa, contaminato anche l'amministratore delegato della TEPCO che gestisce l'impianto di Fukushima, una figura controversa. Se il buon comandante si vede al momento della battaglia, certo il capo della TEPCO, la società di gestione della centrale di Fukushima, andrebbe rimosso immediatamente per chiari demeriti prima che possa combinare altri guai. Il direttore generale Masataka Shimizu, 66 anni, è stato ricoverato ieri all'ospedale per ipertensione ed esaurimento, ma già dal 13 marzo, solo due giorni dopo il terremoto, non si era fatto più vedere in pubblico, sparito. Si è saputo che aveva avuto un crollo psicofisico tale da costringerlo a letto in una stanza separata dell'edificio in cui si riuniva la task force tra TEPCO e governo per fronteggiare la situazione di emergenza. Fioccano le polemiche anche perché Shimizu non avrebbe formalizzato un passaggio di poteri, che invece è avvenuto oggi con l'assunzione delle responsabilità da parte del chairman Tsuneisa Katsumata. Incredibilmente Shimizu non intende dimettersi, e questo è un altro colpo alla reputazione ampiamente perduta di una società che non da ieri ma da decenni ha mostrato di avere sottovalutato i problemi di sicurezza. Proprio oggi il governo giapponese ha annunciato che alzerà gli standard di sicurezza in tutti gli impianti nucleari nel paese. È probabile che la TEPCO, le cui azioni sono crollate, dovrà essere salvata con un intervento pubblico. A quel punto, però, comandanti in capo dello stampo di Shimizu dovranno certamente essere messi da parte. Stefano Carrer, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tokyo. Torniamo in Italia, noi ci trasferiamo a Torino all'assemblea degli azionisti Fiat, dove hanno parlato John Elkann e Marchionne. Ci colleghiamo allora in diretta con Torino, con Andrea Malan del Sole 24 Ore. Andrea. Buongiorno a tutti. Andrea, che cosa è stato detto questa mattina? Guarda, John Elkann ha esordito ricordando come fin dai primi del Novecento, prima il bisnonno e poi il nonno, l'avvocato Giovanni Agnelli, successivamente abbiano coltivato i rapporti con gli Stati Uniti come a costituire una grande premessa a quello che è stato poi l'accordo di due anni fa per l'acquisto di una quota nella Chrysler, che sappiamo sarà anche il futuro di Fiat Auto. Sergio Marchionne ha svolto una lunga relazione esponendo agli azionisti che devono approvarlo il bilancio 2010, riconfermando tutti gli obiettivi per il 2011, per i chiarimenti aggiuntivi su quelli che saranno le prospettive e soprattutto gli avvenimenti possibili per quest'anno, a cominciare dal possibile acquisto della quota del 51% della stessa Chrysler, dovremmo aspettare la conferenza stampa che si terrà nel pomeriggio a chiusura dell'assemblea. Grazie, grazie ad Andrea Malan per questi aggiornamenti da Torino. Noi torniamo invece a Roma, innanzitutto per parlare di Rai, perché domani arriveranno le nuove nomine, c'è una tornata di avvicendamenti e di promozioni sul tavolo del CDA di Viale Mazzini. C'è da sostituire infatti Mario Orfeo, che si è insediato proprio oggi alla direzione del quotidiano romano Il Messaggero. Ecco, al TG2 potrebbe arrivare Susanna Petruni. E poi è in arrivo da Sky Franco Ferraro, che sarà il vice di Minzolini al TG1. Queste sono le notizie relative alla RAI. Sul fronte invece politico c'è una notizia importante che riguarda le carceri. No ai bambini dietro le sbarre. Il lungo iter per vietare la detenzione dei piccoli insieme alle loro madri ha ottenuto il via libera definitivo, modificando la norma che fino ad oggi voleva nei penitenziari italiani anche i bambini fino a 6 anni di età, se le mamme venivano condannate. Le detenute incinta o con figli piccoli non verranno più chiuse in cella con i loro figli, ma andranno invece in strutture apposite come gli istituti a custodia attenuata, gli ICAM. Unica eccezione, particolari esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Se non c'è un concreto pericolo di fuga o di commissione di ulteriori delitti e si riscontra la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, le detenute madri potranno anche espiare la condanna nella propria abitazione o in case protette dopo aver scontato almeno un terzo della pena o almeno 15 anni nel caso di condanna all'ergastolo. Al 31 dicembre 2010 le detenute madri nelle carceri italiane con figli al di sotto dei 3 anni erano 42, per un totale di 43 bambini dietro le sbarre. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca con il delitto dell'Olgiata e la svolta che è stata annunciata ieri. Oggi in conferenza stampa sono stati forniti ulteriori dettagli. È una macchia di sangue sul lenzuolo trovato avvolto al collo della contessa Alberico Filo della Torre, il punto di svolta nell'inchiesta sul delitto dell'Olgiata avvenuto il 10 luglio del 91. Il DNA del sangue è stato confrontato con la saliva di Winston Manuel Reyes, il filippino che aveva lavorato alla villa, ed è risultato identico. Così è scattato l'arresto ieri pomeriggio. I carabinieri lo hanno aspettato sotto casa in zona Medaglie d'Oro a Roma e lo hanno ammanettato. L'uomo ha detto di non ricordare nulla di quella giornata. Ma secondo la ricostruzione degli investigatori investigatori, il filippino che aveva prestato servizio per la contessa fino a 2 mesi prima del delitto, potrebbe essersi introdotto nella villa per commettere un furto, ma sarebbe stato sorpreso da Alberica Filo della Torre. Così la furia omicida, scoperto, si sarebbe scagliato contro la donna con uno zoccolo e poi l'avrebbe strangolata. I reperti trovati sul luogo del delitto 20 anni fa sono stati tutti rianalizzati dagli investigatori di uno speciale gruppo, i Cold Case, che si dedica agli omicidi risolti applicando tecniche moderne e in qualche caso, come questo, possono portare una svolta anche dopo tanti anni. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E noi da Roma ci spostiamo a Napoli, dove è ripresa la triste conta dei rifiuti ammassati per le strade. È riesplosa l'emergenza rifiuti a Napoli, dove i vigili del fuoco sono stati chiamati a domare almeno una decina di incendi di spazzatura appiccati nella notte in diverse zone della città. Cumuli di rifiuti non rimossi sono visibili da alcuni giorni anche nel centro, dopo la situazione di crisi provocata dallo stop alla discarica cittadina di Chiaiano e alla saturazione dell'impianto STIR di Caivano. E riesplode la protesta dei napoletani. Non è colpa dei napoletani che siamo nell'emergenza. Noi la differenziata la facciamo da anni, cerchiamo di farla ma ci boicottano. La speranza intanto si continua a chiamare inceneritore. Il piano rifiuti stilato dalla Regione Campania ne prevede in tutto 4. Ci vorranno però almeno 36 mesi per ultimare quelli di Salerno e Napoli Est, almeno secondo le previsioni del governatore Stefano Caldoro. Abbiamo bisogno di tempo. Non bisogna illudere i cittadini, potremo vivere momenti di crisi come quella che stiamo vivendo in questi giorni, ma voglio solo ricordare che abbiamo in tutto 5 discariche, in una settimana sono state chiuse prima 2 e non sono ancora riaperte, ed è stata poi chiusa una terza discarica per inchieste della magistratura, per controlli di carattere tecnico, quindi già avevamo impiantistica insufficiente. Ecco perché oggi ci sono i rifiuti per strada. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E adesso noi parliamo della Roma Calcio, della lunga notte della Roma Calcio. Un'intesa sarebbe stata trovata, ma la firma ancora non c'è. Accordo raggiunto sull'AS Roma, ma manca ancora la firma, che dovrebbe arrivare entro 20 giorni. Sembra una contraddizione, ma è l'esito della trattativa serratissima per la cessione del club alla cordata americana capitanata da Thomas Di Benedetto. Dopo un confronto di 2 giorni nello studio Grimaldi di Roma, ieri notte è stata diffusa una nota congiunta di Unicredit, Italpetroli e della Di Benedetto per annunciare l'intesa sui termini fondamentali del passaggio di proprietà. Confermata la struttura dell'operazione, che prevede il completamento dell'acquisizione attraverso una società al 60% della Di Benedetto e al 40% controllata da Unicredit. Nella 2 giorni romana, secondo quanto si apprende, è stato raggiunto anche l'accordo sul prezzo. Per arrivare alla firma degli accordi, tuttavia, la Di Benedetto AS Roma dovrà presentare le garanzie necessarie. Entro il Natale di Roma, si augura oggi il sindaco Gianni Alemanno, il club di Francesco Totti potrebbe dunque cambiare proprietario. In questo caso però, afferma il Guardian, si profila un conflitto di interessi per Di Benedetto, azionista del Fenway Sport Group, che ha una partecipazione nel Liverpool. Ciò potrebbe portare all'esclusione della AS Roma dalle coppe europee. Simona Rossitto, da Radio Corpo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi c'è il calcio giocato, vince e convince l'Italia di Prandelli, che a Kiev, in amichevole contro l'Ucraina, bissa la vittoria di venerdì scorso in Slovenia, valida per le qualificazioni ad Euro 2012. Contro gli ucraini 2-0 per gli azzurri, con i gol di Giuseppe Rossi e Matri. L'infortunio muscolare a Chiellini e l'espulsione di Astori, le uniche note negative della serata. Sentiamo proprio Rossi, attaccante del Villarreal, sulle cui tracce vi sarebbe già il Barcellona. Siamo un gruppo, cerchiamo di dare sempre il massimo, chi gioca 10 minuti, 20, 90, si cerca sempre di andare in campo per vincere. Sto giocando bene, sto facendo gol quest'anno e niente, devo sempre lavorare così e speriamo di finire, ecco, questa stagione bene. Aggiornamenti da Lampedusa prima dei saluti. È atterrato proprio pochi minuti fa il presidente del Consiglio Berlusconi all'aeroporto di Lampedusa. Il premier dovrà valutare la situazione legata alla presenza degli immigrati. Dunque, in questo momento si sta trasferendo in municipio, dove incontrerà anche il presidente della Regione Lombardo, il sindaco ovviamente dell'isola De Rubeis, e poi si intratterrà con un gruppo di cittadini che già lo stanno aspettando. aspettando, radunati davanti al palazzo della città. Ne parleremo dunque diffusamente di questa importante visita nel corso delle prossime edizioni di GR24. Intanto questa si conclude qui. Grazie regia a Filippo Aureggi. Vi lasciamo in compagnia d'Italia in controluce. Prossima edizione alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.